verso il voto. Un saluto agli ascoltatori e benvenuti al Punto Politico. Popolo della Libertà alle prese ancora con il caso Ciarrapico. Sotto accusa una nuova intervista nella quale l'editore avrebbe definito Fini uno sguattero. La smentita di Ciarrapico non si è fatta però attendere. Pur dissentendo da alcune posizioni politiche di Fini, dice Ciarrapico: lo rispetto come uomo e come politico. Smentita che soddisfa il leader di AN, che chiude così la polemica. Ciarrapico ha smentito quanto gli ha attribuito oggi Repubblica, aveva smentito quanto lo stesso quotidiano gli aveva attribuito nei giorni scorsi. Un bel tacer non fu mai scritto. Andiamo avanti, facciamo la campagna elettorale, parliamo di programmi. Prendo atto con sollievo della smentita di Ciarrapico, commenta Berlusconi. Certo, aggiunge, se avesse veramente detto quelle cose, la sua presenza in lista sarebbe diventata impossibile. Poi il Cavaliere attacca sinistra e giornalisti. È venuta fuori la solita sinistra di sempre, perché Ciarrapico è uno dei mille candidati del Popolo della Libertà, uno dei mille. Parliamo dei comunisti, ritorniamo a parlare dei comunisti di cui sono piene le liste del Partito Democratico. Ciarrapico vi fa comodo quando porta via i giornali a Berlusconi per conto di De Benedetti e di Caracciolo. Vi fa comodo quando viene all'assemblea del Partito Democratico e sembra che penda a sinistra. Quando invece, come rappresentante della società civile, perché è un proprietario di cliniche, un proprietario di giornali, viene uno dei mille candidati del Popolo della Libertà, vi ricordate che è fascista? Siamo avanti di 10 punti sul Partito Democratico, spiega ancora il Cavaliere, che annuncia: nei primi 3 mesi di governo vogliamo dimezzare il numero dei parlamentari, dei consiglieri regionali e comunali. No agli inciuci, sia convergenze su proposte condivise, auspica invece Fini per il dopo voto. Ai primi atti del governo pensa anche il candidato premier del Partito Democratico Walter Veltroni, impegnato nel suo tour elettorale in Veneto. Andrea Viali. Nel prossimo governo del Partito Democratico ci sarà un ministro o una ministra, non so se sarà un politico, un imprenditore, un amministratore, ma qualcuno che rappresenti il Veneto e il Nord-Est sarà nel governo della Repubblica. È l'impegno che Walter Veltroni prende al termine del suo tour elettorale nel Nord-Est, una parte del paese che è stata per troppo tempo sottorappresentata, dice il leader del PD, che a Verona ha presentato il programma sulla sicurezza del suo partito. Veltroni è anche aperto ad un federalismo a due fasi, soprattutto sul piano fiscale, e si è mostrato ottimista commentando i risultati degli ultimi sondaggi che, dice, senza considerare la Lega, vedono appaiate le due principali forze politiche del paese. Il Popolo delle Libertà e il Partito Democratico sono allo stesso livello percentuale. Allora vuol dire solamente che dobbiamo continuare così, con questa serenità, con questa tranquillità, con questa assenza di quei veleni della personalizzazione della vita politica italiana che sono stati nel corso di questi 15 anni. Sul caso Ciarrapico è preoccupante che la sua candidatura alimenti insulti fra gli alleati nel Popolo delle Libertà, ha aggiunto poi Veltroni. Vedere la foto di un candidato al Senato della Repubblica con il saluto romano non è bene per il paese, non è bene per chi l'ha proposto. No all'intolleranza, infine detto il leader del Partito Democratico, parlando più tardi a Trento dopo una contestazione da parte di un gruppetto di leghisti e di alcuni disobbedienti dei comitati Notav. Altro tema della campagna elettorale, il lavoro. La sinistra arcobaleno insiste, è necessario intervenire in tempi rapidi sui salari e su questo tema serve un confronto tra tutti, così Bertinotti. Sulle cause che in questi oltre 20 anni hanno portato i stipendi, salari e pensioni italiani da essere i più alti in Europa a diventare i più bassi. Di chi siano le responsabilità, dal padronato al governo, e quali è la piattaforma programmatica e quali sono i provvedimenti per operare una redistribuzione del reddito a favore di salari, stipendi e pensioni a danno della rendita e anche del profitto. Di temi economici parla anche l'Unione di Centro. Casini punta il dito sulla scarsa crescita. Le famiglie italiane fanno sempre più fatica a arrivare a fine mese. Le bollette di gas, acqua, luce aumentano a dismisura nella città a causa del mancato processo di liberalizzazione. Io credo che bisogna avere il coraggio di una cura elettroshock, disfarsi delle partecipazioni pubbliche con gradualità ma con decisione e partire dalla difesa del reddito familiare, non abbassare indiscriminatamente di un punto le aliquote IRPEF, costa molto per lo Stato e serve poco ai singoli, ma partire da una politica di deduzioni seria e importante per le famiglie italiane. Casini apre poi all'ipotesi di una grande coalizione virtuosa per le riforme. No all'abbraccio Berlusconi-Veltroni dopo le elezioni, commenta invece dalla destra Storace. Verso il voto termina qui, in studio, Vincenzo Miglietta.